9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Ad una settimana da quel gesto che ci ha colpito tutti, cattolici e non cattolici, dell'abdicazione di quelle che sono state chiamate forse impropriamente le dimissioni del Papa, andiamo a ragionare su quello che può essere l'impatto sull'Italia di tutto questo. Insomma, siamo ad una settimana dal voto. C'è una questione di oscuramento mediatico della campagna elettorale, nemmeno troppo male stando ai vostri giudizi che ci arrivano via Twitter, insomma ci dice Maria, sono contenta che il Papa abbia un poco silenziato la campagna elettorale più squallida che ricordi e ne ho viste tante. Lo stesso fa Fausto Bertinotti, ve l'ho detto poco fa, c'è un'intervista che potete riascoltare sul nostro sito rinnovato, tra l'altro vi ricordo, www.radio24.it, andate a visitarlo e diteci anche che cosa ne pensate. C'è un effetto psicologico, molto probabilmente, un effetto psicologico sui cattolici. Come interpretare questo gesto che molti hanno visto come un gesto di grande responsabilità, un gesto che porta sempre in termini di impatto sulla campagna elettorale probabilmente a relativizzare molto di quello che vediamo, insomma, perché è un gesto storico in una, insomma, nell'unica istituzione millenaria ancora esistente, ossia la Chiesa Cattolica, anzi bimillenaria. E poi c'è un effetto in termini di assetti di potere, perché nasconderselo, insomma, gli incroci tra l'Italia, tra l'Oltretevere e al di qua del Tevere, come è noto, sono moltissimi. Non ci dimentichiamo che fino a 140 anni fa in questo paese il Vaticano esercitava un potere temporale effettivo e anche piuttosto forte, e 140 anni nella storia sono veramente una nocciolina. Carlo Marroni, giornalista, vaticanista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Autore, tra l'altro, di quello che in realtà è un thriller, Carlo, no? Sì, è uscito poco, un romanzo thriller per Rizzoli, Le mani sul Vaticano, dove ipotizzo un conclave contemporaneo, conclave improvviso, non a causa di rinuncia o dimissioni, ma a causa di una scomparsa di un pontefice, quindi diciamo racconto, ipotizzo come potrebbe andare, con un finale a sorpresa che chissà, magari potrebbe anche assomigliare, non lo so, a quello che accadrà, vediamo. Allora, avremmo dovuto avere il ministro Riccardi, ma insomma l'influenza colpisce anche gli esponenti di governo e quindi all'ultimo minuto ci ha detto che non può. Inizierei dunque da te, Carlo, parlando proprio dei tre fronti che ho richiamato poco fa. Vi ricordo il numero verde per intervenire in diretta è 800 24 00 24, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Ci interessa molto da questo punto di vista la vostra opinione, siate cattolici oppure no, insomma, se come cattolici questo gesto vi ha fatto riflettere anche alla luce di quello che sta succedendo in Italia, invece se come non cattolici ritenete che questo gesto non abbia impatto oppure l'impatto sia limitato alle questioni mediatiche. Allora Carlo, come la vedi? Iniziamo così. Ma sicuramente la campagna elettorale ha subito uno shock, questo è chiaro, anche se dire che è stata oscurata è, secondo poi alla fine, infatti, che si sono visti, non è andata proprio così. La questione Vaticano, la questione Papa, quindi conclave, ha sicuramente invaso televisioni e giornali, ma per come si pensava il primo giorno, cioè lunedì scorso, esattamente una settimana fa, è accaduto un po' meno. Poi c'è stata anche una cronaca fortissima giudiziaria che in qualche modo va a insistere sulle parti elettorali. Quindi anzitutto questo fatto c'è la campagna elettorale, ce n'è di meno, questo è sicuro, e forse è un po' diversa, come abbiamo visto, cioè l'agenda probabilmente della campagna elettorale è cambiata, e perché l'atto del Papa ha alzato oggettivamente l'asticella dei temi, questo è un fatto, anche perché vedere un pontefice che rinuncia, che si dimette in un mondo in cui non si dimette nessuno, questa è una battuta che ormai è anche facile, però si è visto come questo, se volete ne parleremo, questo atto di Ratzinger comunque è un atto di grande, poi può essere anche molto criticabile, ma molto grande, e quindi fa apparire inevitabilmente la politica italiana ancora più piccola. Questo naturalmente, questo può essere il profilo psicologico, insomma, l'impatto psicologico. Io verrei a quello degli assetti di potere, perché ci sono stati una serie di posizionamenti, come sempre avviene in questi casi prima delle elezioni italiane. In un pezzo di sabato Massimo Franco sul Corriere della Sera diceva che un diplomatico americano nel 1944, William Bullitt, dopo essere stato a Roma sul settimanale Life, scriveva: il Vaticano è il fattore permanente della politica italiana. Insomma, per certi aspetti, non completamente, è chiaro che tutto questo si è edulcorato nel tempo, si è diluito nel tempo dal 44, certamente, come è normale che sia, e però il peso evidentemente del Vaticano c'è ancora. Come, da questo lato, come la vedi, Carlo? Sicuramente non dal punto di vista elettorale, il popolo italiano non vota più, se non veramente per una parte molto piccola, secondo, diciamo così, gli orientamenti delle gerarchie. Questo lo si è visto abbastanza chiaramente e i sondaggi di questa campagna elettorale lo confermano. Invece c'è ancora una parte, diciamo, un impatto nella parte alta, quindi nei contatti fra i politici italiani e le gerarchie, soprattutto per quanto riguardava le agende parlamentari. Questo è stato molto vero durante i governi Berlusconi, perlomeno nelle dichiarazioni, perché poi nell'atto pratico Berlusconi non ha portato nulla di quello che le gerarchie volevano. Questo è stato poi l'effetto pratico: l'unica legge che interessava le gerarchie, quella sul fine vita, non è stata fatta. Quindi Berlusconi magari portava in piazza un po' di gente, però dal punto di vista legislativo non hanno ottenuto nulla da quel punto di vista. Invece quello che è stato, diciamo, quello che era prima della campagna elettorale, cioè la pressione delle gerarchie sulla formazione di un partito centrista da una parte e altre gerarchie, quelle un pochino più conservatrici, che volevano un PDL più, diciamo così, ripulito da Berlusconi e con un'agenda sempre abbastanza, diciamo così, ispirata al centrodestra, questo non è avvenuto, e le dimissioni del Papa hanno spazzato via i residui, diciamo così, tentativi che si voleva mettere in piedi. Quindi c'è sicuramente un collegamento forte tra la rinuncia del Papa e le elezioni politiche italiane, ma è più percepito che reale in questo momento. Abbiamo visto che il Papa ha ricevuto sabato sera il Presidente del Consiglio Monti in udienza privata, poi abbiamo visto che però privata non è stata, nel senso che Monti poi ha fatto dichiarazioni esterne, probabilmente concordate, naturalmente non credo che l'abbia fatto senza il via libera del Vaticano, ma come dire, ha comunque messo in piazza questa sua udienza con il Papa, raccontando, dicendo, e quindi avendo comunque sia una visibilità cattolica, una visibilità di collegamento con il Vaticano che altrimenti non ci sarebbe stata in altra occasione. Questa è stata sicuramente una concessione importante a Monti. Massimo Franco, saggista, giornalista del Corriere della Sera, ha in uscita il libro La crisi dell'impero Vaticano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Citato poco fa, tra l'altro, per il suo pezzo di sabato che si dedicava proprio, la sua analisi di sabato che si dedicava proprio a questi rapporti tra l'Italia e il Vaticano e questo raffronto tra l'Italia e il Vaticano, due stati e due sistemi entrambi privi di governo, scrive, bloccati per le elezioni e per il conclave, e poi questi scandali del recente passato che hanno per protagonisti personaggi, scrivi, un po' vaticani, un po' italiani. Secondo te che impatto ha questo gesto del Papa? Su quello, di quello mediatico abbiamo già ragionato ed era abbastanza naturale, un evento così grande che oscuri la campagna elettorale è abbastanza normale. Molti ci dicono, ne siamo ben contenti perché è stata talmente brutta questa campagna elettorale che francamente è molto meglio così, mentre invece dal lato, appunto, su questo fronte, dal lato anche degli assetti di potere, dei rapporti tra il oltre Tevere e al di qua del Tevere, Massimo. Ma la sensazione che si ha è che ci sia una strana coincidenza temporale tra il declino della Seconda Repubblica Italiana e quella che potremmo forse definire la Seconda Repubblica Vaticana. Noi abbiamo assistito in questi anni, soprattutto accentuato durante il papato di Benedetto XVI, ad una coda di alleanza con blocchi di interessi e con anche partiti che in qualche modo oggi arrivano verso un epilogo rispetto al fronte elettorale. E il fatto che il Papa abbia annunciato le dimissioni in qualche modo anticipa, rivela e aggrava questa coincidenza. È come se il Papa avesse bruciato sul tempo tutti, facendo con il suo gesto capire che la riforma è talmente difficile che è meglio sacrificarsi piuttosto che andare avanti in questo modo. Io credo che in realtà il gesto di Benedetto XVI, per quanto molto controverso e che avrà l'obiettivo e comunque sia l'effetto di ridefinire una volta per sempre il profilo del papato, abbia conseguenze italiane soprattutto perché segnala a tutti che se è vero che il Vaticano non funziona più bene al punto da indurre un Papa ad un gesto così epocale, beh, questo deve essere molto presente ad un'Italia che ormai da molto tempo non cresce più, che adesso sta calando del 3,7% di PIL, ma che soprattutto mi pare abbia un livello di credibilità morale, oltre che di efficienza, che è ben più bassa di quella del Vaticano. Vincenzo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Io credo che quello che il Papa è riuscito a dare un messaggio a tutti, e questo messaggio ha la forza di un concilio. Lui non aveva la possibilità, la forza fisica di organizzare un concilio, e ha deciso di dare un messaggio che sarà rivoluzionario. Io penso che il Papa sia stato il Papa meno politico, ma sia stato in grado di dare un gesto, di fare, di effettuare, di manifestare un gesto politico più forte, e non credo soltanto nella storia recente dell'Italia, ma in generale nella storia del mondo. Un uomo che non era costretto a dimettersi, anzi tutti volevano che lui non lo facesse, invece l'ha fatto in assoluta libertà, e questo per dare un segno forte: il servizio è superiore al potere, il potere senza servizio non ha nessun senso, e lui, quando si è accorto che non poteva svolgere il proprio servizio nella maniera migliore possibile, non ha accettato di avere più il potere, e credo che questo sia un insegnamento per tutti. Oltretutto un po' mi tremano le gambe se penso all'importanza di quello che ha detto, cioè che non ha più la forza, probabilmente dalla sua intelligenza prevede un futuro non facile, dove il Papa, così come tutti quanti gli uomini di grande responsabilità, dovranno svolgere un compito, e governare solo con la parola questo non sarebbe stato possibile. Grazie Vincenzo per il bell'intervento. È una valutazione che girerei prima a Massimo Franco e poi a Carlo Marroni. Dice Vincenzo: è un gesto che ha la forza di un concilio e un atto politico fortissimo. Franco. Ma intanto saluti a Carlo Marroni. Io devo dire che il gesto definito rivoluzionario secondo me è poco, nel senso che rivoluzionario è qualcosa che appartiene probabilmente agli ultimi 2-3 secoli, questo è un gesto epocale perché riguarda gli ultimi 600 anni. E devo dire pure che, nonostante io capisca benissimo questo ragionamento dell'ascoltatore, resta comunque una perplessità più di fondo. Un Papa si può dimettere? Dal punto di vista del diritto canonico sì, in realtà credo che questo gesto dovrà essere molto spiegato, molto motivato, perché credo che nella comunità cattolica, ma non solo, si sappia che questo gesto ridefinisce totalmente il papato e creerà problemi, contraccolpi a catena. Quando noi pensiamo che un papa si può dimettere, non si può non pensare ai contraccolpi che ci saranno quando un successore potrà essere investito da campagne che tendono a farlo dimettere dall'esterno, e quindi a possibili pericoli di destabilizzazione dei pontificati. Io parlavo qualche tempo fa durante questi articoli con un prelato, il quale mi diceva: questo è un vulnus dal punto di vista giuridico, istituzionale, di immagine. Era naturalmente un sacerdote, e questo mi è rimasto impresso perché al di là delle affermazioni un po' di maniera, scusatemi se lo dico, non naturalmente nostre, ma soprattutto nel mondo ecclesiastico di questi giorni, in realtà vedo sotto una grandissima perplessità che forse verrà fuori dopo che il Papa si sarà dimesso. Carlo Marroni, una tua valutazione, perché ti ripeto, a me l'intervento di Vincenzo ha colpito molto, anche perché proprio ha sottolineato quanto fosse quanto sia stato politico l'atto del Papa, posto che creerà i problemi che dice Franco sicuramente. Sì, anzitutto saluto anch'io Massimo Franco, che in questi giorni sta facendo un lavoro straordinario, che tutti leggiamo. Bene, sicuramente il gesto del Papa... appunto è un fatto, ci sarà un prima e un dopo, diciamo, ecco, questo sicuramente. L'11 febbraio 2013 è una data della storia della Chiesa, aprirà una serie di questioni, vulnus e interrogativi che andranno ad incidere su capisaldi, probabilmente su capisaldi della Chiesa stessa. Parliamo dell'infallibilità del dogma, dell'infallibilità del Papa, per esempio, un tema su cui probabilmente, ma siccome la Chiesa ragiona sempre in termini decenni e anche più, naturalmente questa non è una riforma elettorale che si deve chiudere in 3 settimane, 1 mese, questa è una roba che andrà avanti per decenni, però è ovvio che apre degli interrogativi che andranno ad incidere non solo appunto nelle questioni interne, ma di come il papato verrà percepito. C'è chi ha detto che il Papa si è dimesso come un amministratore delegato. Allora, questo naturalmente possiamo dire oppure che non si deve sacrificare fino alla fine, come il Cardinale di Cracovia ha detto, dalla croce non si scende, aprendo insomma anche una critica abbastanza aperta a questo gesto. Sicuramente un gesto grande, importantissimo, probabilmente, come diceva Vincenzo, ascoltatore, l'ha fatto anche come un atto di amore verso la Chiesa, c'è un atto talmente forte che non può essere solo letto appunto come una debolezza fisica. La Chiesa è stata attraversata, lo è tuttora, da lotte interne più o meno enfatizzate, ma insomma, comunque anche poi uscite ufficialmente, non è che sono fantasie dei giornali, perché poi anche questa è una cosa che va un po' sfatata, insomma, i giornali riportano quello che succede, non quello che dovrebbe auspicabilmente accadere. Quindi evidentemente su questa crisi profonda, su questa spaccatura che non è solo fra cardinali, ma anche tra impostazioni, tra le idee di Chiesa, tra l'applicazione o meno del Concilio Vaticano II, questioni grosse, evidentemente Ratzinger ha messo un punto, ha fatto un reset generale in maniera improvvisa, talmente forte che ha lasciato scioccati tutti. Certo, io poi voglio capire, magari lo facciamo nella seconda parte della trasmissione, perché il tema che volevo affrontare era in realtà quello, secondo voi come si sta reagendo in queste ore, come si sta ragionando al di qua del Tevere. Intanto però voglio sentire un'altra ascoltatrice, un altro ascoltatore che è un'ascoltatrice, è Angela da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il mio punto di vista è quello di una fedele, modesta, che non riesce a capire del tutto quello che sta succedendo. Quello che io vedo è ben assurdo, perché hanno vinto, secondo me, le forze potenti e negative del malaffare e sono stati sconfitti i deboli, la positività dei valori cristiani. Noi fedeli ci sentiamo schiacciati da questi giochi di denaro, di potere temporale marcio. Doveva combattere il Papa, però si sentiva incapace, perché non riusciva forse a vedere tutte le insidie dei potenti che cercavano di arraffare tutto quanto. Ha vinto, secondo me, Bertone che secondo me sembra quasi un principe alla Machiavelli, un principe politico in cui non vedo ombre di sacralità, neanche una briciola. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, all'800240024 ci ha chiamato anche Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo fare una semplice annotazione. Secondo me la data scelta per le dimissioni non è tanto casuale, perché parliamo dell'11 febbraio, data in cui corre il concordato. E quindi io penso che, considerando anche le qualità, diciamo, cioè questa data non sia stata scelta così a caso, insomma. e farei un collegamento, anche perché tutti gli organi di stampa non hanno assolutamente messo in evidenza questo aspetto, che secondo me invece potrebbe avere una sua, diciamo, giustificazione, ecco, tutto qua. Grazie Giovanni. Franco, in questo incrocio del quale parli tra le vicende italiane e quelle, che è più un parallelismo in realtà, no? Tra le vicende italiane e quelle vaticane, secondo te può avere un qualche significato quello che ci dice il nostro ascoltatore? Può darsi, anche se io tengo a leggere le vicende della Chiesa sempre in termini molto interni alla Chiesa. Noi a volte tendiamo ad attribuire significati italiani a cose nelle quali la Chiesa segue delle proprie logiche, sono tutte interne, quindi c'è il rischio in realtà di attribuire ad una cosa di questo tipo, di questa enormità, una valenza di politica interna pure che può essere solo molto indiretta, ma io tenderei a ridurre molto questa possibilità, mentre invece quello che mi colpisce è la telefonata precedente, quella in cui la nostra ascoltatrice parlava della sconfitta dei deboli. Io non so se sia stato sconfitto un debole, certamente è stato sconfitto un Papa che ha cercato di riformare la Curia e di riformare la Chiesa e in qualche modo ha dovuto alzare le mani. E effettivamente c'è un elemento che sconcerta in questi ultimi giorni ed è il fatto che mentre c'è questo dramma per la Chiesa epocale, quello che noi vediamo come atto ufficiale è la nomina del presidente dello IOR, dopo 9 mesi che quel posto è stato lasciato vuoto. Allora l'idea che come il Papa si dimette, scatti la corsa a nominare il presidente dello IOR, impedendo di fatto al prossimo pontefice di esaminare quella nomina, mi è sembrato un gesto che lascia intravedere, non voglio dire che sia così, ma che lascia intravedere qualche problema che volevano risolvere rapidamente per mettere il prossimo Papa di fronte al fatto compiuto. Carlo Marroni, tu come la vedi? Che tra l'altro delle vicende dello IOR ti sei occupato parecchio, insomma. Sì, quello che dice Franco è fondatissimo, nel senso che è una questione interna della Chiesa, quindi appunto leggere in chiave di appunto di Berlusconi o Bersani o altro, insomma, no, direi di no. Invece appunto questa nomina dello IOR ha lasciato tutti un po' sconcertati, nel senso che c'è stato proprio nell'ultimo miglio, in questo periodo che potremmo chiamare dell'anatra zoppa, anche se non sappiamo chi è il successore, si fa una nomina che è effettivamente sensibile, è importante ma soprattutto è molto sensibile visto i temi che della trasparenza finanziaria su cui la Chiesa Cattolica, quindi la Santa Sede, è impegnata a livello di istituzioni internazionali, del Consiglio d'Europa, per non parlare di tutte le indagini di una magistratura italiana che forse non sono centrali nella vita della Chiesa, però la tirano costantemente in ballo. Questa nomina è stato giustificato dicendo sì, si aspettava il nuovo Papa, si sarebbe andati tra un anno circa, però appunto c'è stata una fretta degli ultimi giorni, perché poi è andata avanti 9 mesi questa ricerca e poi nel 3 giorni viene chiusa, evidentemente c'era una volontà di blindare una serie di nomine che poi probabilmente sopravviveranno al nuovo papato per un po'. Poi il nuovo Papa sappiamo in teoria no, un Papa ha un potere assoluto e totale, poi però non ce l'ha perché, come diceva Franco, Ratzinger è vero che ha tentato di fare alcune riforme, ma la Curia, il corpaccione della Curia sostanzialmente gliel'ha impedito. Questo ricorda sì un po' l'Italia quando si cerca di incidere sulla pubblica amministrazione per cercare di razionalizzare e ripulire, ma non ci si riesce. Sì, dice i luoghi dove contano più i dirigenti che il ministro, cioè i ministeri dove contano più i dirigenti del ministro. Sentiamo altri ascoltatori. Maria ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire questo, vista da cattolica e da persona che vive a Roma. Intanto il Papa non si identifica più in quello che è il nostro capo spirituale, perché tutte le mancanze della Chiesa in quanto Stato, in quanto cioè la pedofilia, lo IOR, tutte queste cose, lui non si identifica in questo, non si identifica nel comportamento della Chiesa. Lui è il nostro capo spirituale, per cui è costretto a lasciare il suo papato. Poi c'è anche questa cosa da dire, lui è tedesco, adesso il rappresentante dello IOR ha un cognome tedesco che la massa di noi persone esterni che non sappiamo e molto spesso non vogliamo manco vedere, magari lui dà ancora un rimarco, ancora, non vuole che la Chiesa sia tedesca per tutti i pregressi che ci sono. Lui non si sente più spiritualmente il nostro capo, per cui ha fatto un atto che doveva fare, non aveva via di scampo. E poi non è che il Papa comanda, il Papa sta lì ed è circondato, per cui tutti dettano e lui è il capo spirituale. Sempre, grazie, sempre da Roma ci chiama Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Allora io ho una considerazione, ho poche considerazioni molto semplici, intanto sono credente, praticante, eccetera, ma bisogna poi stare con i piedi per terra. Dunque lui è stato eletto 7-8 anni fa, allora bisogna capire l'obiettivo di chi, consentitemi questo termine un po' brutale, lo ha voluto lì, qual era l'obiettivo? I cardinali votano, ma poi sono chiaramente influenzati da correnti internazionali, c'è una lotta sempre quando bisogna eleggere il Papa. Allora, chi lo ha messo lì ha fatto in modo, secondo me, ha fatto tre cose. Uno, ha messo un teologo perfetto fra quattro mura, ma chiaramente purtroppo carente rispetto a Papa Wojtyła, che era quello delle foglie oceaniche. Quindi, come dire, ha voluto intanto iniziare a inclinare in qualche modo la Chiesa, perché la distanza fra i due, personaggi eccezionali, ma la distanza fra i due si vede, l'hanno notata tutti. Quindi questo era un modo per, come dire. La seconda questione è quella che praticamente lui ha chiesto scusa, che per carità è corretto, per 7-8 anni di seguito. Lui non ha fatto altro che chiedere scusa a tutto il mondo, e anche questo, ma per caso gli è stato chiesto di farlo da coloro che l'hanno messo là per qualche motivo. E la terza cosa è, chiuderai la tua carriera dando le dimissioni, perché le dimissioni rappresentano purtroppo una bruttissima faccenda per la Chiesa. Ho la sensazione che questo sia un attacco frontale nei confronti della Chiesa, che ha sempre avuto nemici, ma questo è un attacco frontale con l'obiettivo di disturbare la Chiesa. Teoria del complotto, Marco? È una teoria del complotto, però guardate, voglio dire, ne sono state dette tante di teorie del complotto, sì. Però quando uno si deve dimettere in questo modo, tra l'altro poi sì. Il 23 prossimo il Papa sarà in visita privata da Napolitano, mi chiedo anche per quale motivo. Io sono sempre un po' perplesso sulle teorie del complotto, però sentiremo anche i nostri ospiti. Voglio Alessandro che ci chiama da Bergamo, buongiorno. Alessandro, ci sente? Pronto? Sì, sì, è lei. Sì, scusi, non sentivo bene. Sì. Io volevo dire solo una cosa, volevo riflettere da un punto di vista umano, nel senso che mi sembra che voi state affrontando la questione politicamente, e invece io vorrei dire, umanamente il gesto del Papa cosa significa? Secondo me ci ha fatto riconoscere la vulnerabilità dell'uomo, la sua debolezza, ce l'ha fatta vedere, indipendentemente da ogni cosa. Ha detto, stiamo andando verso un super uomo, una super società perfetta, io invece mi fermo, sono debole e lascio il mio posto. Riprendendo un'ascoltatrice, secondo me non si è trattato della perdita di un debole, ma del trionfo dei deboli, secondo me. Grazie Alessandro, insomma ci fa piacere sentir tutto, insomma anche le valutazioni sull'aspetto umano, questo giusto per chiarezza, insomma, perché è anche una ricognizione su quello che pensano i fedeli, per quanto dal nostro piccolo. Massimo Franco, la teoria del complotto ne stanno circolando tantissime in questi giorni, poi quando si parla di Vaticano non sono mai troppe da Dan Brown in avanti. Beh, il complotto è una tesi che galleggia e riemerge di tanto in tanto, ha un rischio di essere autoconsolatoria, perché l'idea del complotto rimanda a qualcosa di esterno alla Chiesa, che condiziona la Chiesa e che la destabilizza. Io credo che questo, se c'è stato un complotto, è stato un autocomplotto, mi spiego, ho la sensazione che siamo alla parte finale di un lungo scontro all'interno della Chiesa tra gruppi di potere e di interessi che alla fine hanno piegato Benedetto XVI, ma io non credo che le dimissioni di Benedetto XVI siano state indotte da queste persone e volute da queste persone, anzi, se si vuole, il gesto del Papa, ripeto, per quanto controverso, molto discutibile e foriero di grandi equivoci, è la ribellione estrema contro queste persone, le quali invece di aiutare il Papa e di fargli scudo, hanno usato il Papa come scudo quando si trattava di difendersi. Quindi se c'è un complotto, ripeto, è dall'interno della Chiesa e non dall'esterno. La cosa grave è che le dimissioni del Papa possono in prospettiva trasformare questi complotti interni anche in complotti esterni. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, Rocco ci chiama da Ragusa, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'opportunità. Prego. Io sono un credente, volevo soltanto fare una brevissima considerazione. Allora, affrontare le dimissioni del Santo Padre come se fosse l'amministratore delegato della Chiesa che si dimette, mi sembra molto riduttivo, perché vorrei ricordare che la Chiesa cristiana è sostanzialmente nata nell'ambito della debolezza. Dico, Gesù è andato in croce avendo tutti contro, ma soprattutto dico anche le grandi rivoluzioni del cristianesimo, ricordo il francescanesimo ad esempio, sono sempre state le rivoluzioni che si sono basate sulla povertà. Allora, affrontare, ripeto, il discorso soltanto dal punto di vista politico mi sembra riduttivo, perché escludiamo completamente la dimensione spirituale, che secondo me è quella più importante. Allora, la scelta del Santo Padre di andar via è una scelta di sofferenza sicuramente, però i credenti devono avere la fiducia del fatto che comunque non siamo una SPA, la Chiesa Cattolica, e anche nei momenti di grande debolezza è proprio la debolezza quella che poi fa rinascere i valori importanti della Chiesa. Allora, complotti, allora le dimissioni per motivi politici e compagnia bella, secondo me riduce moltissimo lo spirito fondamentale della Chiesa, e io direi che da credente devo avere fiducia invece che questo sia un momento rivoluzionario, e dalla debolezza profonda, secondo me, nascerà o ritornerà la Chiesa ai valori cristiani iniziali. Ecco, questo voglio dire, sì. Ma ripeto, continuare a parlare soltanto di... Questa è la sua valutazione, Rocco, però naturalmente bisogna tener conto di tutte le implicazioni di questo gesto e dei racconti che quotidianamente persone come Massimo Franco o Carlo Marroni ci fanno sui giornali, racconti naturalmente che indicano evidentemente il tema della lotta di potere al centro di questo gesto, naturalmente con un impatto spirituale che è evidente, e però in merito anche alle dichiarazioni, agli interventi degli altri ascoltatori, no? Che parlavano dell'abdicazione del Papa, delle dimissioni del Papa esattamente in questi termini, io ricordo, e su questo voglio coinvolgere di nuovo Carlo Marroni, all'indomani abbiamo fatto una puntata nella quale abbiamo deciso di ospitare anche un ateo duro e puro come Paolo Flores d'Arcais, che diceva, sapete, alla fine un gesto di questo genere ha l'effetto di desacralizzare la figura del Papa, e insomma quel certo smarrimento che leggo in alcuni interventi degli ascoltatori, al di là dell'ultimo, mi sembra che dia ragione a questa ipotesi, Carlo. Beh, naturalmente sono aperte tutte anche le suggestioni e le considerazioni. Il Papa ha fatto un gesto umano, questo è un fatto, non ha fatto un gesto da rappresentante di Dio in terra. Lui se ne lascia il 28 sera e arriva un altro, quindi quello che ci dicevamo prima, cosa sarà in futuro il papato, anche se lui già lo prevedeva, le dimissioni sarà evidentemente un tema tutto da vedere, ma non è un caso che proprio in queste ore, in questi giorni, i giuristi vaticani stanno cercando di mettere insieme il come gestire questa cosa, che c'è anche un fatto pratico, come si chiamerà, dove abiterà, cosa, eccetera, ci sono mille, gli appartamenti verranno sigillati, e questi sono aspetti pratici però che attengono direttamente alla figura sacrale del Papa, quindi renderlo più umano, più desacralizzato, c'è un, come dire, un tema che gli atei vedono, su questo non c'è dubbio. Allo stesso tempo, diciamo così, il Papa, chiudendo la partita con la rinuncia, a proposito delle lotte interne, cioè queste lotte sono state viste in questo ultimo anno è stato terribile, tra Vatilix, lo IOR, le dimissioni del Vescovo Viganò, ora senza dilungarsi sono fatti però accaduti, evidentemente una figura, quindi qui torniamo all'uomo che non aveva evidentemente la voglia, la forza, la tenuta, l'esperienza di voler fare il capo, Queste lotte, proprio perché non faceva il capo, diciamo così, politico, ma il capo teologico, ha permesso che questo si sviluppasse sotto, ma questo accade in qualsiasi situazione umana, in qualsiasi azienda, in qualsiasi organizzazione, se non c'è una guida forte che impone una linea, che la determina, sotto si sviluppa di tutto, e questo è quello che è accaduto. Allora lui a un certo punto ha detto, ecco, la Chiesa ha bisogno di altro, ha bisogno di una riforma, ha bisogno di una, come dire, di una sterzata, e la do nell'unico modo in cui posso darla. Claudia ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. A proposito del francescanesimo, l'ascoltatore precedente ha già detto molto, cioè il non riconoscersi più in questa Chiesa da parte di molti credenti che vorrebbero una Chiesa spirituale, non frammista di impegni economici, finanziari, che nulla hanno a che fare col messaggio di Cristo. Ma volevo anche aggiungere, a proposito di quello che ha detto il Pontefice, della divisione interna, anche tutti questi gruppi, Opus Dei, Legionari di Cristo, che sono nati sotto il pontificato del precedente pontefice, non credo che giovino all'unità dei cristiani, e credo anzi che siano un grande problema, perché costituiscono altri gruppi di potere difficilmente controllabili all'interno della Chiesa. Vorrei sapere un'opinione in merito, in base appunto a quello che è stato detto su queste divisioni. Grazie Claudia. Nel chiedere un'opinione a Massimo Franco, noto anche che poi alla fine si torna sempre là, cioè ci dispiace Paolo, insomma l'ascoltatore ci invitava a leggere, invitava tutti a leggere la cosa da un punto di vista spirituale, però purtroppo alla fine si torna sempre là, perché anche troppe ne abbiamo viste e lette negli ultimi anni. Massimo Franco. Sì, io mi scuso se dopo questo intervento vi devo lasciare, però volevo dire che dal punto di vista delle premesse ero d'accordo con l'ascoltatore che parlava di piano spirituale, cioè del fatto che il Papa non è un amministratore delegato, ma proprio per questo la sua rinuncia è qualcosa che non può essere letta soltanto in termini spirituali, proprio perché non è un amministratore delegato. Noi abbiamo avuto, forse con Benedetto XVI, il primo caso di desacralizzazione dall'alto. Cioè non sono stati gli avversari a desacralizzare il pontificato, ma lo stesso pontefice con il suo gesto di fatto a relativizzarlo, quindi questo è un elemento forte. Per quanto riguarda queste organizzazioni che sono state citate, i Legionari di Cristo certamente sono uno dei casi più eclatanti per lo scandalo che ha provocato la figura del loro fondatore, che poi è stato appunto espulso dalla Chiesa per tutti i crimini che ha commesso. Credo che siano uno degli aspetti della crisi di questo pontificato, e anche del fatto che questo pontificato ha risentito di un'eredità pesante, non di Giovanni Paolo II in quanto tale, ma del vuoto di potere che si è creato negli ultimi anni, quando Giovanni Paolo II era malato, e quindi in qualche modo già allora la curia, il governo della Chiesa, prese in mano le cose. Certamente per questa mancanza di potere e di guida forte, di governo, che in fondo è stata perpetuata e quasi accentuata da Benedetto XVI, queste organizzazioni che dovevano essere parte della ricchezza della Chiesa in nome dell'unità, si sono rivelate delle specie di vassallaggi autonomi, delle tribù nelle quali ognuno ha pensato più a consolidare le proprie posizioni di potere che a lavorare in un'armonia che era più che mai necessaria alla Chiesa, e oggi anche questo lo vediamo come risultato appunto di una mancanza di unità della Chiesa, che poi è a quel livello ma si ripercuote anche a livello di episcopati mondiali. Grazie Massimo Franco, ti salutiamo, ma tra l'altro tra 2 minuti e mezzo chiude la trasmissione anche, cioè nel senso chiudiamo, dobbiamo chiudere la trasmissione perché andiamo in pubblicità e poi ci sarà il giornale radio. Come sempre chiudo con una valutazione su tutto questo con Carlo Marroni. Carlo. Sì, diciamo che era stato Giovanni Paolo II a incrementare molto queste organizzazioni, l'Opus Dei nasce molto prima, ma però sotto Giovanni Paolo II viene riconosciuta come prelatura personale, poi i Legionari di Cristo, che era una storia molto diversa. Tuttavia, ecco appunto, Ratzinger non ha mai amato queste organizzazioni, le ha totalmente rispettate perché è una forza della Chiesa, però non era come Giovanni Paolo II, quindi diciamo non se ne è mai occupato molto, e hanno avuto una storia, diciamo che un po' per conto loro in questo pontificato. Probabilmente il prossimo Papa, una sua grande, diciamo così, missione è quella di riportare ad unità tutte quante queste anime della Chiesa. Grazie, grazie anche a Carlo Marroni. Io vi ricordo, insomma, sono due colleghi giornalisti, abbiamo ospitato Massimo Franco, saggista e notista politico del Corsera, in uscita il suo libro La crisi dell'Impero Vaticano, sta lavorando molto su queste cose, trovate i suoi pezzi quotidianamente sul Corriere della Sera, così come trovate sul Sole 24 Ore quotidianamente in questi giorni i pezzi di Carlo Marroni, tra l'altro recentemente autore di un thriller, Le mani sul Vaticano, ambientato in tempi di conclave, quindi quanto mai attuale. Grazie a Franco Piantanide, Alessandro Marco Tulli in assistenza, Filippo Aureggi in regia, Rosa Eleonora al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. 9 in punto.